100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. L'economia cinese è in ripresa, lo dicono le cifre dell'Istituto Nazionale di Statistica di Pechino. Il PIL cinese ha registrato un aumento del 6,9% nel primo trimestre del 2017 ed è il secondo consecutivo. Ed è stato il dato migliore rispetto alle aspettative ed è anche migliore dal terzo trimestre del 2015. Sono in sostanza segnali positivi per la tenuta dell'economia del gigante orientale. Si tratta ancora soprattutto dell'effetto degli investimenti pubblici in infrastrutture, che sono saliti del 9,2%, e della vivacità del mercato immobiliare, che conosce una buona stagione di acquisti fino addirittura ad apparire surriscaldato il mese scorso, quando gli acquisti di nuove case hanno segnato un aumento del 18% rispetto al marzo del 2016. Il dato di ieri è in linea con le aspettative del governo, che per quest'anno punta a una crescita complessiva intorno al 6,5%, è in lieve diminuzione rispetto all'obiettivo dello scorso anno, che era compreso fra il 6,5% e il 7%. D'altro canto, nel 2016 la Cina era cresciuta del 6,7%. La produzione industriale è anch'essa salita del 6,8% nei primi tre mesi di quest'anno rispetto sempre al trimestre del 2016. E si è registrato però un'accelerazione forte a marzo, quando l'aumento è salito al 7,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Crescono poi nel 10% nel primo trimestre anche le vendite al dettaglio. Anche in questo caso si è verificata un'accelerazione nell'ultimo mese di marzo, altro segnale quindi che la crescita del gigante cinese potrebbe continuare anche nei prossimi mesi, e questo naturalmente è una buona notizia per i mercati globali. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Il primo ministro inglese, Theresa May, ha chiamato a sorpresa le elezioni anticipate, un fatto a cui noi siamo abituati in Italia, dove quando c'è incertezza su quali sono gli equilibri politici fra i due principali partiti, tra maggioranza e opposizione, si chiamano le elezioni perché decida poi l'elettorato. Ma quello delle elezioni anticipate è un po' tipico nostro come fenomeno, più di quello inglese, che appunto non a caso si tratta un po' una delle prime volte nella storia che gli inglesi vengono a chiamare al voto anticipatamente rispetto alle date previste. Il motivo è chiaro: Brexit. La Theresa May vuole essere sicura di avere il massimo del sostegno del proprio elettorato e soprattutto degli inglesi, e soprattutto ancora di più degli inglesi della City, nel momento in cui dovrà avviare la trattativa finale con l'Unione Europea per il distacco definitivo dall'Europa. Che cosa succederà dunque questo voto anticipato dell'8 giugno? Per ora la May ha un vantaggio di circa 20 punti e probabilmente, forte di questi 20 punti, intende proprio calcare la mano e quindi presentarsi al tavolo negoziale con il pieno supporto del Paese. Certo è che in questo momento i mercati finanziari sono stati un po' presi di contropiede dalla decisione, non a caso la sterlina ha avuto un forte rimbalzo, erano giorni che la sterlina scendeva, proprio perché si elimina l'incertezza sul mandato della May, ma dall'altra parte la borsa è caduta. Questo non deve assolutamente preoccupare, anche perché è evidente che in un momento di rafforzamento della sterlina diventa più costoso riportare all'estero i profitti maturati al London Stock Exchange. Quindi per il momento niente di grave, niente di scioccante, ma sicuramente un voto a sorpresa e la capacità, ancora una volta, degli inglesi di sorprendere il mondo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.